può fare. Voci da un mondo sostenibile di Laura Bettini. Una buona giornata a tutti voi che siete all'ascolto in questo sabato mattina, nel quale parleremo di fare la differenza, non la differenziata, attenzione, non vogliamo parlare di spazzatura, anche se è un tema importantissimo e più volte ne abbiamo parlato, ma vogliamo parlare di quelli che in qualche situazione specifica sono riusciti a fare la differenza o stanno facendo la differenza con la loro vita, con i loro studi, con il loro modo di vivere, di essere. Insomma, non vogliamo parlare di quella tendenza che c'è a livellare un po', no, tutto, ma vogliamo parlare di coloro e di situazioni e di cose, di attività che fanno la differenza. E quindi il primo nostro ospite è un ragazzo, un giovane, uno studioso che ha deciso di fare la differenza nella sua stessa vita. È partito come uditore alla grande conferenza sul clima del 2015 a Parigi e poi via via ne ha fatto una carriera, adesso addirittura ne ha fatto un libro. Lui è Federico Brocchieri, è già in collegamento con noi. Buongiorno. Buongiorno e grazie per l'invito. Ormai consulente su molte questioni ambientali, delegato da un tempo che eri uditore, adesso delegato alle conferenze sul clima delle Nazioni Unite, autore di I negoziati del clima. Tra l'altro in questi giorni ricorre l'anniversario della conferenza sul clima di Parigi, ma c'è di più, Brocchieri, perché l'Unione Europea, insomma, ha fatto delle scelte importanti nelle ultime ore, quindi a maggior ragione il lavoro diventa importante. La situazione è importante. Com'è stato il passaggio da uditore a consulente, adesso esperto, delegato, tutto velocissimo in 5 anni? Sì, diciamo è un percorso nato tanti anni fa ormai, anzi nel 2011 con la prima conferenza a cui ebbi l'opportunità di partecipare in Sudafrica e sicuramente ho imparato molto nel corso degli anni. Le prime conferenze sono state utili per capire come funzionasse questo processo, che è molto complesso, che porta insieme 197 paesi che devono necessariamente trovare degli accordi, cosa non sempre semplice. E dopodiché, appunto dal 2017, ho l'opportunità di partecipare a queste conferenze, fornendo supporto anche alle delegazioni dell'Italia e dell'Unione Europea. Sicuramente è stato un cambio di prospettiva molto significativo, ma anche molto interessante e rappagante. E come si fa a fare la differenza in queste grandi conferenze? Io sono stata solo a quella di Parigi, lo ammetto, e ovviamente con lato giornalistico, quindi non so come si tratta, come si, no, si raggiungono questi obiettivi. Adesso devo dire solo una cosa, scusami che ho dimenticato, cioè che per le storie degli ascoltatori sulla fare la differenza ci sono sempre a disposizione i nostri numeri, come sempre 349 238 6666 per SMS e WhatsApp e l'800 24 0024. Allora diceva appunto, come si fa la differenza lì? Spuntano i piedi, non è semplice, diciamo, dipende anche dalle prospettive, appunto. Per esempio, quando ero tra le fila della società civile con altri ragazzi da vari paesi, lavorammo tra il 2013 e il 2015 proprio per fare delle proposte per l'inserimento di un principio all'interno dell'accordo, il principio di equità tra generazioni. Una cosa che può sembrare abbastanza banale, un cliché forse, ma dopo un intenso lavoro, insomma, riuscimmo a far inserire nel preambolo dell'accordo questo principio. Quindi quello fu un modo molto concreto in cui si mostrò che anche dei ragazzi dalla società civile potessero avere un impatto, un esito concreto proprio sui testi negoziali. Chiaramente, passando all'altro lato, è molto più complicato. È complicato perché ovviamente negoziare i testi è un processo lungo che richiede tanti confronti, quindi sicuramente non è semplice. Forse l'aspetto più significativo consiste quando si riesce, diciamo, ad avere la possibilità di trovare dei punti di incontro tra i paesi. Quello forse è il modo più diretto a livello tecnico per incidere in qualche modo. Mi sono autocensurata, come spesso mi capita, chiudendo il microfono per non fare rumore di sottofondo, e il risultato appunto è che poi dopo perdo l'attimo. Io credo che ci vogliano tanti nervi saldi e tanta determinazione sull'obiettivo, perché per esempio io sono una che si arrabbia facilmente, non potrei fare una trattativa di questo genere. Beh, diciamo, ci sono anche, va detto, vari livelli negoziazione. Ovviamente c'è il livello politico, dove negoziano capi di Stato o ministri, e poi c'è il livello tecnico. A livello tecnico è quello dove mi inserisco anch'io, siamo sicuramente in un piano dove ci sono dei confronti che talvolta sono anche molto, molto accesi, insomma molto sentiti, però diciamo tutti riconosciamo la necessità di trovare dei punti di incontro e di giungere a una convergenza. Quindi diciamo che da questo punto di vista siamo facilitati anche dalla nostra veste tecnica di portare avanti questo lavoro, ci conosciamo da molti anni in alcuni casi, quindi insomma da quel punto di vista siamo un pochino facilitati, e magari ovviamente si sente meno la pressione che può sentire ovviamente un leader di una nazione. Ecco. Quelli che, come ad esempio è successo a Bruxelles in questi giorni, come trovi che sia questo risultato che adesso viene sbandierato come ottimale, però comunque è inferiore a quello che aveva chiesto ad esempio il Parlamento europeo? Ma diciamo forse non sono la persona migliore per esprimermi nel merito di quello che sono gli accordi che vengono definiti a livello europeo. Quello che posso dire è che sicuramente l'Europa è stato uno dei gruppi di paesi, in questo caso, che sicuramente ha fatto di più nel corso degli anni. L'Europa ha rispettato dapprima gli obiettivi del protocollo di Kyoto e si è posto fin da subito degli obiettivi più ambiziosi per il 2030, che adesso ha ulteriormente innalzato. Poi chiaramente ci sono sempre vari livelli di ambizione che possono essere raggiunti e bisogna cercare di fare il massimo possibile, ecco. Però questo è uno sforzo, ripeto, in cui sono tutti coinvolti i paesi, a partire dall'Europa, passando però per tutte le altre grandi potenze che naturalmente sono impegnate. Federico, volevo sapere, i negoziati sul clima, che è di Edizioni Ambiente, tu l'hai scritto con che intento? Va visto come un racconto di quello che hai vissuto, o più che altro è un ponte verso il futuro, verso chi si occupa di questi argomenti? Ho cercato di fare entrambe le cose. Diciamo, lo scopo principale era cercare di spiegare come effettivamente funzionasse questo processo, perché sicuramente in passato sono stati scritti anche dei testi dove si è raccontato degli esiti delle conferenze. Quello che mi sono accorto, perché spesso mi veniva detto anche da studenti universitari delle scuole superiori dove andavo a fare lezione, che mancasse era invece un riferimento che spiegasse veramente come si svolgono queste conferenze, come nasce un testo ad esempio, quali sono le alleanze negoziali. E quindi ho cercato di mettere insieme la mia esperienza di questi 9, quasi 10 anni di partecipazione alle conferenze, spiegando tutto questo, le tappe principali e ovviamente quali possono essere le prospettive per il futuro a partire dal prossimo anno, che sarà sicuramente molto importante in vista della COP26. Tra l'altro noi l'anno prossimo avremo un ruolo specifico e particolare, nuovo, questo della COP Giovani. Mi sembra una bella occasione per fare un bel dibattito nazionale, e ma non solo chiacchierare, anche magari stringere qualcosina. Sì, l'Italia avrà un ruolo importante, perché nell'ambito dell'accordo di partenariato che ha siglato insieme al Regno Unito, ospiterà l'anno prossimo a Milano l'evento preparatorio di alto livello, quindi con la partecipazione dei ministri, che si chiama Pre-COP, e in congiunzione con quell'evento appunto una conferenza dedicata e partecipata dai giovani di tutto il mondo. Quella potrebbe essere un'occasione, e lo sarà con ogni probabilità, molto importante per dare la possibilità finalmente ai giovani di avanzare proposte concrete. Spesso si è parlato del contributo dei giovani come movimento di protesta. Pensiamo a tutte le manifestazioni, mobilitazioni degli ultimi 2 anni che sono sorte. Però credo che i giovani, oltre a questo, abbiano dato prova e dimostrazione di poter fare anche tante proposte. Quindi quella potrebbe essere un'occasione in cui avanzarne di concrete. Federico, resti in ascolto. Ci ha raggiunto Michele Freppaz, buongiorno, professore associato di pedologia e nivologia presso l'Università di Torino. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Ben ritrovato. Si parlava di giovani e della COP Giovani Italiana, ma vorrei sapere gli giovani studenti come li vede, carichi. Tra l'altro voi avete varie iniziative in campo, Lessico e Nuvole, le parole del cambiamento climatico, parte domani, e ci vorrà anche la partecipazione di giovani e studenti, immagino. Ah, sicuramente, diciamo che il ruolo che l'università, ma diciamo la scuola in genere, nei termini educativi, quindi anche educazione al cambiamento climatico, educazione nel conoscere e apprezzare l'ambiente è fondamentale. Lei ha citato questo progetto dell'Università di Torino, Lessico e Nuvole, che va proprio in questa direzione. Si tratta proprio di... Ma come funziona? È un volume, una sorta di glossario, un dizionario dei termini che vengono utilizzati per descrivere il cambiamento climatico. È la seconda edizione, è curata da tre colleghi, tra cui insomma giovani colleghi, che hanno realizzato quest'opera. È scaricabile gratuitamente online, quindi proprio un vocabolario, e verrà presentato, diciamo, la versione cartacea, un pochino il progetto, domenica 13, in un evento online che sarà ospitato dal Forte di Bard ad Aosta, a cui è possibile collegarsi andando sulla pagina Facebook dell'Università di Torino, media.unito.it, dalle 16 alle 18 verrà presentata quest'opera e ci saranno dei giovani, soprattutto i giovani che hanno contribuito alla stesura, no, di parti di questi termini, alla descrizione di parti di questi termini, saranno presenti e racconteranno il loro lavoro. Allora abbiamo una pausa per la viabilità, torniamo subito dopo. Si può fare. Si può fare. Si può fare. Si può fare. E siamo di nuovo insieme, in collegamento abbiamo Federico Brocchieri, con lui abbiamo parlato del suo libro appena uscito, I negoziati del clima, di Edizioni Ambiente, e il professor Michele Freppaz, professore associato di pedologia e nivologia presso l'Università di Torino. Professore, poi voglio chiedere anche a Federico Brocchieri sull'aspetto del negoziato, ma noi abbiamo letto notizie inquietanti anche questa settimana rispetto allo stato delle nostre Alpi e dei nostri ghiacciai, non gli si dà lunga vita purtroppo. Lei che va sempre sul campo ce lo conferma? Confermo, cioè i ghiacciai conferma sono... anche che i tentativi di coprirli con le coperte, con le cose, insomma, sono un po' palliativi, non riescono. Beh, più di tanto. Sono palliativi magari in zone molto localizzate, ma sicuramente non sono risolutivi di un problema che è un problema globale e riguarda i ghiacciai dell'intero nostro pianeta. Si perdono ogni anno, i ghiacciai perdono 400 miliardi di tonnellate di ghiaccio, quindi è un fenomeno che coinvolge l'intero nostro pianeta, è un fenomeno che è proprio indicativo del riscaldamento globale che si sta osservando in questi anni. Riscaldamento globale che è ancora più accentuato proprio nelle aree montane. L'IPCC ha stimato un incremento di 0,3 gradi a decennio nelle aree montane, che è di più rispetto a quello che è l'incremento medio di temperatura del nostro pianeta, che diciamo soltanto tra virgolette di 0,2 gradi decennio. Quindi le montagne sono ancora più sensibili al cambiamento climatico e i ghiacciai sono un formidabile sensore di quello che sta avvenendo. In Italia anche abbiamo dei dati molto precisi grazie al Comitato Glaciologico Italiano e sappiamo ad esempio che dagli anni 80 abbiamo perso il 40% della superficie dei nostri ghiacciai. E che la cosa è destinata, appunto, come leggevamo in questi giorni, a peggiorare. Ora, questa situazione, Federico Brocchieri, è irreversibile purtroppo. Cosa possiamo raggiungere con misure, diciamo, stringenti? Che cosa possiamo ottenere di non peggiorare? Diciamo, ci sono due linee di azione che vanno poste in essere in maniera complementare. La prima è quella delle misure di mitigazione, cioè dobbiamo ridurre le emissioni di gas serra a livello globale in maniera rapida e incisiva. Questo è quello che la scienza ha indicato come necessario per evitare ulteriori gli impatti peggiori del cambiamento climatico entro la fine del secolo. Poi parallelamente dobbiamo promuovere politiche di adattamento, soprattutto per quegli impatti che non sono più evitabili con ulteriori interventi di mitigazione. Sicuramente la scienza ci dice che abbiamo già raggiunto ormai quasi un grado di aumento di temperatura a livello globale. L'obiettivo all'interno dell'Accordo di Parigi è di non superare l'aumento di 2 gradi alla fine del secolo, facendo ogni sforzo per far sì che non si vada oltre a 1,5 gradi. Quel mezzo grado può sembrare poca cosa, ma in realtà in termini di impatti, anche ad esempio sui ghiacciai di cui si è appena parlato, può significare davvero molto. Quindi c'è una bellissima pubblicità di un gelato americano che abbiamo visto recentemente anche nella nostra riunione di redazione, che fa vedere quanto poco basta per far sciogliere un gelato. Non è che dobbiamo pensare a 10 gradi in più, basta tirarlo fuori dal frigo e già, no, poco dopo. E quindi l'effetto, se vogliamo immaginarcelo, è un po' quello. Sì, diciamo, siamo in una situazione tale dove ogni contributo aggiuntivo che riusciremo a mettere in atto potrebbe fare la differenza per preservare determinati ecosistemi ed evitare che si superino quei cosiddetti tipping point, punti di non ritorno, che se superati in determinati ecosistemi potrebbero accelerare ancora di più il riscaldamento globale. Infatti. Professore Freppaz, mi raccontavano che sull'altopiano di Asiago però ormai siamo a una media di 3 gradi in più addirittura, quindi zona per zona le cose sono completamente diverse. Beh, diciamo che poi c'è una certa variabilità, quindi quelli che sono, diciamo, i dati medi che vengono diciamo riportati è una media. Ovviamente ci sono aree in cui questo riscaldamento è ancora più significativo, e questo denota proprio quanto anche la complessità del sistema climatico, di come reagisce il nostro ambiente. Però il trend è questo, è inequivocabile, così come è inequivocabile il contributo che le attività umane danno a questo riscaldamento. E come diceva prima l'altro ospite, sicuramente sappiamo cosa fare, voglio dire, abbiamo degli obiettivi ben precisi, e credo che prima si accennava agli aspetti educativi, io credo che creare consapevolezza, parlare di questi argomenti, questo sicuramente aiuta nel saper prendere le misure necessarie per poter contenere questo fenomeno, di cui la criosfera, di cui i ghiacciai, di cui la neve sono un formidabile sensore. L'esempio del gelato mi piaceva moltissimo. La neve, così come il ghiaccio, è uno stato molto vulnerabile della materia, e questa acqua allo stato solido, ma basta veramente poco, una minima variazione di temperatura affinché quest'acqua dallo stato solido passi allo stato liquido. Quindi si tratta veramente di equilibri estremamente delicati, che proprio denota la vulnerabilità di questi straordinari elementi del nostro pianeta. Ma a proposito di attività umane, Brocchieri, le attività umane si adattano, no? L'altopiano di Asiago ci si può coltivare il mais ora, però non ci si può sciare. È chiaro che è tutto un riadattamento, ma nel complesso lo dobbiamo vedere come negativo? Allora, diciamo, per chiarire, quando mi riferivo all'adattamento, prima in generale ci si riferisce a determinate attività volte a adeguarsi agli impatti, quindi diciamo a far sì che gli impatti degli effetti del cambiamento climatico abbiano le minori conseguenze sulla nostra vita, sulle nostre città, sui nostri ecosistemi. Misure di adattamento me ne sono diverse, diciamo, però ci sono delle situazioni dove palesemente non se ne possono trarre benefici. Si pensi alle piccole isole del Pacifico, che già oggi stanno facendo i conti con un innalzamento del livello dei mari e hanno già avviato alcune di esse dei programmi per ricollocare parte delle proprie popolazioni in altri paesi, perché sanno già che nel giro di pochi anni le zone attualmente abitate non lo saranno più. Certo. Quindi diciamo, ci sono sicuramente determinati casi in cui da politiche di adattamento si possono trarre anche magari dei micro benefici a livello locale, però sicuramente non è questo il trend a livello globale, che vede gli impatti del cambiamento climatico aumentare frequenza, intensità di eventi estremi e con un costo anche in termini di vite umane, oltre che economico, già piuttosto elevato, soprattutto nei paesi più vulnerabili. Certo, aggiungo anche con delle conseguenze geopolitiche, con l'apertura per esempio delle rotte polari, delle rotte artiche per passaggi che fino adesso erano totalmente preclusi, e quindi cambia un po' tutta anche l'equilibrio generale, direi. Professor Freppaz, domani alle 16, quindi pronti online? Sì, pronti online, sì. Spero che sia un appuntamento soprattutto, diciamo, per il mondo dei giovani, ma non solo, quindi mi auguro che sia un'occasione formativa, così come tante altre che si organizzano molto bene, possa essere comunque un'altra opportunità. Grazie a tutti e due, Michele Freppas e Federico Brocchieri, per essere stati con noi. 824 0024 per le vostre storie di differenza, di fare la differenza. 349 238 6666 per messaggi e WhatsApp. Ci ritroviamo subito dopo GR24, tra poco. Si può fare, si può fare, si può fare. A worried man with a worried mind, no one in front of me and nothing behind. There's a woman on my lap and she's drinking champagne. Got white skin, got assassin's eyes. I'm looking up into the sapphire tinted skies. I'm well dressed, waiting on the last train. Standing on the gallows with my head in the news. Any minute now I'm expecting all hell. E ancora ben ritrovati da Laura Bettini. Le cose cambiano, come dice Bob Dylan, quando si vuol fare la differenza. E di questo noi stiamo parlando, di persone, di cose, di situazioni, di organizzazioni che vogliono fare la differenza. Se volete segnalarcele, ci sono sempre i nostri consueti numeri, 349-238-6666, oppure il numero verde 800-24-00-24. Nel frattempo approfittiamo della esperienza di IGP Deco, che già da qualche tempo, da diversi mesi, ne parlammo ai tempi in cui fece lo scouting di coloro che fanno la differenza a Milano. Beh, sono andati avanti e sono arrivati dopo Parma, Napoli e Milano, appunto, a Torino. Segnali d'Italia, la campagna di IGP Deco, che appunto va a fare una ricerca tra coloro che stanno facendo la differenza per la città, è arrivata a Torino, si è unita ad Edison, è arrivata la campagna Energia del Cambiamento, che ha trovato coloro che in città a Torino vogliono fare la differenza. Claudio Bertona, buongiorno. Buongiorno Laura e buongiorno agli ascoltatori di Radio 24. Project Manager di IGP Deco, appunto, scouting a Torino. Cosa avete trovato? Quali meravigliose iniziative sul territorio sono state messe in campo, alle quali voi darete visibilità con una campagna, appunto, in città di affissioni, quindi di pubblicità in sostanza delle loro attività? Certo, grazie intanto. Ma permettetemi di fare una domanda, perché è una domanda che ci fanno tanti. Perché IGP Deco è vero, è un operatore di affissioni, infatti ci chiedono: ma perché voi che fate affissioni state portando avanti questa campagna? Dai, vuoi rispondere? Rispondimi. Fatti una domanda e date una risposta. Faccio una domanda. Intanto io credo che i media abbiano un compito importante nella società civile, la vostra trasmissione è una testimonianza e debbano contribuire anche alla crescita culturale e morale di un paese. E noi siamo un media e oggi essere media significa ascoltare le persone. Il nostro media è in mezzo alla gente e la campagna Segnali d'Italia è proprio nata dall'ascolto, andare a cercare queste storie virtuose, raccontarle e cercare di creare partnership anche con altri media, perché il nostro media ti segnala qualche cosa ma poi va tutto approfondito. Il Segnali d'Italia è nata così. Noi abbiamo un modello di business sostenibile, nel senso che il concetto di arredo urbano è un'invenzione della Deco. Le fermate dell'autobus senza il signor Deco non ci sarebbero state, così come il bike sharing. Però adesso voglio entrare, giusto per raccontare un attimino perché facciamo questa cosa, perché siamo nella città in mezzo alle persone e perché da sempre ci siamo occupati di città, essendo oggi in 4.000 città al mondo e intercettando ogni giorno 800 milioni di persone nel mondo. Che cosa abbiamo fatto a Torino? A Torino abbiamo titolato la campagna L'energia del cambiamento. Come diceva lei, dopo le storie di Napoli e Parma, abbiamo portato Torino a Torino Segnali d'Italia con Edison, che e quindi ci voleva per forza l'allusione all'energia. Poi comunque per cambiare ci vogliono le forze di cambiare, di fare le cose, quindi bravissima. Ci sta bene anche, comunque. Benissimo, hai perfettamente ragione, ma ci vuole anche la forza di costruire un sistema che poi possa proseguire. Pertanto la collaborazione tra pubblico, privato e istituzioni, anche il Comune di Torino ci ha dato il patrocinio e ha accolto con entusiasmo la nostra iniziativa. E in più abbiamo trovato la calorosa ospitalità del quotidiano La Stampa che sul territorio, che cosa ha fatto? Ha raccontato 15 storie tra ottobre e novembre, storie virtuose che hanno toccato tantissime aree, dall'integrazione, dalla sostenibilità, dal cambiamento proprio di uno spazio diventato in altro modo, e noi dovevamo selezionarne 5 che diventeranno testimonial della campagna. Questa selezione è stata difficile perché erano tutte bellissime, perché è difficile poi scartare sempre, è chiaro. Bravissima, lo vediamo nei talent show tutte le sere. Beh, da una parte c'è il divertimento nel talent show, in questo caso invece fa una scelta che esclude, diciamo, in maniera da un'occasione, ecco, perché esclude da un'occasione. Stavo guardando le scelte che poi avete fatto, vanno su vari filoni, forse avete voluto premiare la diversità delle azioni. Bravissima, abbiamo scelto proprio alcune tematiche, per dire la cooperativa Speranza di Gandiolo tocca la tematica del cambiamento climatico, dell'impegno anche su questo tema importantissimo per il pianeta. Pensate che Carlo Vanzetti, che ho sentito più volte, una persona entusiasta, ha più o meno la mia età, oltre i 60 anni, ha avuto la forza di cambiare una società agricola con mucche che faceva cose normali, realizzando biogas con gli scarti ovviamente della produzione, col quale riscalda il vicino istituto di ricerca, che è un'eccellenza, l'istituto di ricerca sul cancro di Candiolo, e fornirà anche carburante per 50 camion. Lui va a fare un'azione di cui beneficiano malati, che invece avrebbe potuto tenere per sé, perché il biogas è biogas, in fondo quando ce l'hai lo puoi utilizzare, no? Quindi lo regala, lo dona. È questa visione anche che va oltre all'ambiente, c'è anche questo aspetto. E noi abbiamo intitolato la campagna, che avrà una sua foto, La Speranza è un'energia pulita. Poi passiamo da una persona over 60 come me a dei giovani, due giovanissimi, Paolo Bottiglieri e Pietro Cappatine, di 24 e 28 anni, che hanno fondato questa app, WeGlad, come noi siamo gladiatori, perché per loro i gladiatori sono le persone con disabilità che incontrano tutti i giorni ostacoli nella città. Hanno creato una piattaforma anche col coinvolgimento di tantissimi ragazzi, giovani e meno giovani, che segnalano e mandano gli ostacoli che trovano, che si possono trovare in una città, dalla bicicletta lasciata parcheggiata male alla buca e ad altro. Chiaramente questa app serve anche a una mamma con passeggini e con bambini, e il titolo di questa campagna è stata L'app che ti cambia la via. Allora io devo chiederle però, Bertona, visto che adesso li dico io velocemente gli altri tre, volevo chiederle invece del Segnali d'Italia Chiama Torino, questo bando, forse cogliamo l'occasione di dire di che cosa si tratta e se ci sono ancora spazi per accogliere proposte o richieste. Assolutamente, cioè queste cinque campagne saranno i testimonial della campagna, ma noi, come abbiamo fatto a Milano, lanceremo un bando, Segnali d'Italia Chiama Torino, al quale potranno partecipare progetti di associazioni cittadine, imprese sociali, fondazioni. Edison finanzierà i primi tre progetti classificati con 15.000 euro cada uno, e noi di GP Deco daremo lo stesso valore in spazi per raccontare proprio anche i vincitori della campagna. Il bando è partito il 10, perciò durerà fino al 10 dicembre, durerà fino al 10 febbraio. Ci si potrà iscrivere passando dal sito Segnali d'Italia, c'è il sito della stampa che darà voce, lo racconteremo ancora attraverso i social network, e Fondazione Sodalitas, che ci ha aiutato a Milano, oltre che Fondazione Accento con la sua piattaforma Idea 360, lanceranno la call al mondo dell'associazionismo e del terzo settore torinese. Anche il Comune collaborerà con queste entità proprio per divulgare sul territorio l'attività e far sì che partecipino numerose associazioni, fondazioni, come dicevamo. La ringraziamo molto. Allora, come lei ci ha detto, i 5 progetti che sono stati selezionati nella prima parte di questa campagna Segnali d'Italia a Torino, Energia del Cambiamento, sono la cooperativa Speranza di Candiolo, WeGlad, un'app appunto che cerca i percorsi più sicuri per persone con disabilità e non solo. Poi ci sono Arteria Onlus, attiva nel recupero di ragazzi e ragazze NEET, quelli che non sono né in educazione né al lavoro o in apprendistato. Poi ci sono Colori Vivi, progetto di sartoria per donne migranti. Housing Giulia, una struttura sociale voluta da Opera Barolo e dall'impresa sociale Coabitare per persone in temporanea difficoltà abitativa. Claudio Bertona, grazie, complimenti a IGP Deco che continua su questo percorso e alla prossima occasione. Grazie a voi, grazie Laura e grazie ai suoi ascoltatori. Viabilità. Si può fare. Può fare. La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. E fare la differenza la si può fare anche nelle carceri italiane in particolare, andando a insegnare qualcosa che non ti aspetteresti di vedere insegnato in carcere, ma che in realtà è molto importante. Riccardo Bizzarri, commercialista, coordinatore nazionale del Centro Studi Tributaristi LAPET. Buongiorno Riccardo. Buongiorno Laura e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Avete ideato e portato in carcere a Ferrara il progetto Apprendere a Imprendere. Avete già fatto il primo anno, poi purtroppo vi ha fermato l'epidemia in corso, ma a noi il progetto piace molto e speriamo venga presto replicato a fine emergenza in altri istituti di pena italiani, e quindi vorremmo sapere, Riccardo, come funziona. Beh, guarda, innanzitutto grazie per l'invito e non so se noi come associazione faremo la differenza, ma di certo ci abbiamo provato. Beh, il progetto è nato veramente davanti da un bicchiere di vino tra me, il presidente, il segretario nazionale, e avevamo fatto un progetto. Come nascono le migliori idee? Esatto, come nascono le migliori idee. Avevamo studiato un progetto alcuni anni fa, appunto, che si chiamava Apprendere ad Imprendere per le scuole. Cioè, mandavamo, diciamo, i nostri associati o comunque le figure apicali della società nelle varie scuole d'Italia per imparare o far imparare ai ragazzi di quarta e quinta superiore ad imprendere nel momento in cui non avessero voluto studiare all'università piuttosto che altre cose. Poi a un certo punto abbiamo detto, ma considerato che l'attività del tributarista è comunque un'attività in un qualche modo di numeri, definiamola arida, abbiamo deciso di fare qualcosa per il sociale, e tra l'altro aggiungo in modo completamente gratuito, poi Laura ti spiegherò perché. E quindi abbiamo scritto al Ministero di Giustizia, abbiamo scritto ai vertici della nostra città di Ferrara, alla casa circondariale di Ferrara, appunto, alla direttrice, al comandante, e abbiamo detto, ma a voi andrebbe se noi replichiamo questo progetto all'interno delle carceri? Ovviamente entrare in carcere è molto complesso, molto difficile, quindi ci abbiamo messo 6 mesi per organizzare questo progetto, e poi alla fine è arrivato il momento. È arrivato il benestare del Ministero, siamo entrati nelle carceri, la prima esperienza che abbiamo fatto è stata a Ferrara, ed è un'esperienza semplicissima, cioè abbiamo provato ad insegnare ai detenuti ad imprendere, cioè a fare impresa, i detenuti. Cioè cosa devono fare nel momento in cui vogliono per esempio aprire un'attività o si mettono a fare un lavoro di artigianato. Esattamente, guarda, i detenuti che rimangono in carcere per parecchio tempo e sono in procinto di uscire, in questo periodo in cui rimangono in carcere imparano un mestiere, che può essere il cuoco, piuttosto che il pasticcere, piuttosto che l'idraulico, l'elettricista, e quindi nel momento in cui se ne escono, tu pensa che durante queste lezioni io poi alla fine mi fermo a parlare con i detenuti, no? E i detenuti mi dicono: quando entri in carcere, Riccardo, è un momento terribile, un momento terrificante, orribile. Però non pensare che quando esci sia un momento meno doloroso, perché tu hai sempre lo sguardo rivolto indietro. E io con l'associazione, noi con l'associazione abbiamo provato a rivolgere lo sguardo in avanti, cioè dire: quando esci, guarda che tu un'attività la sai fare, basta solo metterla in pratica con qualche piccolo accorgimento. E noi come tributaristi, come dicevo prima, in modo completamente gratuito, mandando eventualmente nelle carceri i nostri associati a fare una lezioncina che dura poi 4 ore, ma nello stesso tempo date la speranza ai detenuti. Ma tipo, gli insegnate, non so, se volete aprire un negozio, questo è quello che dovete fare, oppure gli insegnate a tenere i registri contabili, visto che si parla di commercialisti. No, no. Allora, facciamo una cosa veramente molto semplice, facciamo a loro una dispensa che creiamo noi, e gli facciamo i primi passi nel momento in cui esco, io voglio aprire la mia attività. Perfetto, allora cosa devi fare? Aprire la partita IVA, recarti in Camera di Commercio, eventualmente iscriviti in Camera di Commercio, i rudimenti, diciamo, fondamentali per stare nel mercato del lavoro come lavoratore autonomo, come artigiano, come commerciante. Poi è ovvio che nel momento in cui imprendono avranno necessità del professionista, però l'idea che loro sappiano i primi passi in una burocrazia, tra l'altro che in Italia è terrificante, è molto importante, perché gli dà quella speranza. Tu pensa che, ti racconto un piccolo aneddoto, quando abbiamo fatto appunto la prima giornata, che è stata nel carcere di Ferrara, con il patrocinio della città di Ferrara, come dicevo prima, insomma, la direttrice e la comandante, che sono due persone estremamente aperte, inclusive, moderne, mi hanno detto: guardi, dottore, le dico una cosa molto semplice, non si aspetti che poi i detenuti rimangano lì ad ascoltarla per 4 ore. Questo non succede nemmeno quando c'è un concerto, quando facciamo la commedia, quando facciamo non so che cosa. Allora, ti dico, Laura, che per 4 ore non si sono mossi, non è volata una mosca, siamo entrati in empatia immediatamente, avevano una voglia di imparare ad imprendere che è stata incredibile. Cioè, ma non sarà stato anche il modo in cui hai posto, perché io ti sento come sei carico, il modo in cui ti sei presentato, perché a volte anche quello fa la differenza. Cioè, ma guarda, io sono tra virgolette un tributarista un po' anomalo, nel senso che cerco di entrare, mi pare anche a me con, cerco di entrare in empatia con le persone, perché secondo me la vera differenza la fa proprio il modo in cui ti poni. E quindi ho fatto una cosa molto semplice. Quando entri in carcere, devo dire la verità, e che senti aprire le cancelle e chiudere le cancelle, io non so se alcuni di voi sono entrati, ma fa veramente impressione, fa veramente impressione. E quindi quando sono entrato ho cercato esattamente di essere come loro, cioè in quelle 4 ore mi sono sentito un detenuto che insegnava ad altri detenuti. Questa è stata la vera differenza. Alla fine non mi lasciavano più andare via perché mi hanno riempito di domande. Cioè, mi sembrava di essere a uno di quei convegni che ormai faccio da 20 anni. Però mentre il pubblico solitamente sono tributaristi, commercialisti, avvocati, cioè io faccio il formatore da 20 anni, qui il pubblico era diverso. Ma mi sono sentito a casa. Mi sono sentito a casa e ovviamente, non so, c'è una frase molto bella che leggevo prima di collegarmi, che è una frase di Leo Buscaglia che diceva: ogni volta che facciamo qualcosa di nuovo, anche noi diventiamo qualcosa di nuovo. E ti dico, Laura, io quel giorno sono diventato qualcosa di nuovo. Ti ha caricato anche per la vita molto, esterna, molto, diciamo. Molto, moltissimo. Riccardo, che differenza c'è tra un commercialista e un consulente tributario? Perché c'è qualcuno che si è incistato su questo punto e secondo me non ha sentito una parola di quello che hai detto perché è offeso dall'essere stato chiamato commercialista. Allora, mettiamo che differenza c'è e quanto ti ha offeso, ti chiedo scusa. Ma guarda, allora, a me personalmente non offende mai niente per il semplice motivo che la vera differenza la fa il mercato. Però due parole molto semplici. Approfittiamo della situazione. Il dottore commercialista, tra l'altro io sono un dottore commercialista e un ordinista, è un iscritto all'ordine. Il tributarista è, in questo caso tributarista l'APET, è iscritto a un'associazione di tributaristi. Uno ha fatto un percorso di studi diciamo che ha portato all'esame di Stato, l'altro ha fatto un percorso di studi che porta a un esame per entrare nell'associazione tributaristi l'APET. Io ti posso dire ma fanno due attività molto diverse? Fanno due attività molto simili. simili. Fanno due attività molto simili. È chiaro che ognuno vuole avere, diciamo, il proprio orticello, però posso dirti la verità, negli anni 2020 questa differenza secondo me non dovrebbe più esistere. Cioè, dovrebbe esistere la differenza del mercato, studiare, imparare. Henry Ford diceva, se smetti di imparare sei vecchio, sia 20 anni che 80. Se invece non smetti di imparare sei sempre giovane. Ecco, questa è la vera differenza. Studia, impara, informati, aggiornati. Poi, che tu sia tributarista, che tu sia commercialista, che tu sia consulente del lavoro, la vera grande differenza secondo me la fa la preparazione, l'impegno, la passione. Ma voglio dire, alla fine in una burocrazia come la nostra facciamo tutti la stessa cosa. Purtroppo, nonostante tutte le differenze, la burocrazia è unica per tutti, dai. Ah, la burocrazia è unica per tutti. Purtroppo sì, purtroppo sì. Adesso senti, abbiamo fatto la differenza anche su questo punto, oltre che sulla questione apprendere a imprendere, mi viene intraprendere, invece è imprendere, ci stava bene lo stesso. Sì. Mutuabile da altri, no? In altre situazioni, in altri luoghi d'Italia, io credo che tu sia disponibilissimo a dire ad altri tuoi colleghi, che ne so, in Sardegna, noi abbiamo fatto così. Ma guarda, già sta succedendo questo, nel senso che Ferrara è stato il progetto pilota, ripeto, perché abbiamo avuto una serie di concause che ci hanno portato anche sfortuna. Però, come ti dicevo prima, il progetto è completamente gratuito, le dispense le forniamo noi, quindi sono dispense molto molto semplici, e abbiamo già avuto richieste, ad esempio dal carcere di Udine, che dovevamo essere in aprile, poi purtroppo la pandemia ci ha messo in difficoltà. E come funziona? Funziona che il responsabile dei tributaristi di ogni città si reca attraverso lui o alcuni dei suoi collaboratori presso le carceri. Come ripeto, ci sono alcune situazioni un po' particolari per entrare in carcere, cioè ci vogliono i permessi, ci vuole pazienza, ovviamente ci vuole un po' di pazienza. Quindi l'insegnamento di quella mattina è completamente gratuito, cioè noi mettiamo a disposizione i nostri associati in modo completamente gratuito. È un piacere per noi, è una crescita per noi ed è probabilmente una differenza per loro, perché passano una mattinata diversa, c'è un momento di aggregazione e ripeto, non vola una mosca. Ti dico l'ultima cosa che mi ha particolarmente colpito e anche emozionato. Quando noi facciamo formazione, e ripeto, io la faccio da tantissimi anni, o sei molto bravo, o entri molto in empatia con la platea, o dopo un po' di tempo la platea ti comincia a giocare ti con abbandona, il telefonino, ti parla col vicino. Ecco, il detenuto non ha il telefonino. Questo sembra una sciocchezza, ma il detenuto non ha il telefonino. Quindi o ti ascolta, altre se ne va. Cioè non ha la possibilità, diciamo, di fingere di ascoltare. E ti dico, non si è mosso nessuno. Non avere il telefonino ti dà anche quella responsabilità come formatore di poter essere accessato. Quindi ti dico, a me quell'esperienza ha cambiato la vita ed è assolutamente replicabile in ogni città. Riccardo, ti scrivono, la tua passione arriva forte e chiara, te lo scrive un'ascoltatrice che si chiama Maura e l'abbiamo sentita anche noi, davvero. Riccardo Bizzarri è il coordinatore nazionale del Centro Studi Tributaristi LAPET, grazie per essere stato con noi, buon proseguimento, buon sabato. Grazie a te Laura, grazie tante. Si può fare. Si può fare. Potrei essere una bugia, falsa da sembrare vera, che ti illuda per un po', che non faccia male mai. Vorrei essere armonia, vento che gonfia la bandiera, accarezzare le montagne per riportarti qui, per respirare, solo respirare e dimenticare e non pensare più, respirare dei Subsonica per introdurre il nostro prossimo ospite, un biologo italiano, recentemente ha vinto l'EMBO, leggiamo l'italiana, EMBO, per farvi capire, Young Investigators Award, il riconoscimento che premia il migliore ricercatore a livello europeo che non abbia ancora compiuto i 40 anni. Il nostro ospite è Luca Tiberi, professore dell'Università di Trento, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. In precedenza Tiberi lei aveva vinto già diversi premi, uno dei quali, quello della Fondazione Armenise Harvard, l'aveva riportato in Italia da laboratori all'estero, nel quale, in particolare in Belgio, vero se non sbaglio, nel quale stava lavorando in quel periodo. Questo riconoscimento di questi ultimi giorni premia che ricerca? La faccio spiegare a lei perché onestamente ho paura di calpestare, vero, territori per me inesplorati e sconosciuti. Allora, questo premio è stato attribuito a me e a tutto il laboratorio perché abbiamo creato dei piccoli cervelli artificiali che non sono complessi come il nostro cervello, sono sempre un modello. E da questi piccoli cervelli artificiali abbiamo creato dei piccoli tumori che assomigliano ai tumori pediatrici infantili. Quindi li avete ammalati in una certa... Sì, esatto, esatto. Li abbiamo fatti diventare malati, come i tumori dei bambini, purtroppo. E con questi piccoli tumori adesso possiamo possiamo testare tantissimi farmaci, cosa che prima non era possibile. La difficoltà era nel crearli o nel crearne tanti? Diciamo entrambe, siamo riusciti a creare questo nuovo piccolo tumore che prima non era presente, non era possibile fare in laboratorio, e adesso riusciamo a farne anche tantissimi, perciò riusciamo, come dicevo prima, a testare tantissimi farmaci, tantissimi nuovi farmaci che potrebbero aiutare i bambini. Certo, ed è una cosa che si fa lì a Trento. Sì, quindi non è una produzione, diciamo così, non so, è orribile dirlo in questa organoidi si chiamano. Sì, ecco. Dei piccoli organi. Non è una produzione, diciamo, per altri laboratori, è una cosa che fate per il vostro laboratorio di ricerca. Sì, esatto, una piccola produzione, poi vorremmo cercare anche di riuscire a produrne di più anche per gli altri laboratori che ce li stanno chiedendo, perché sono un nuovo modello che prima non avevamo. E quindi è qui la differenza proprio rispetto al passato. Adesso non è solo la differenza che fa lei nel tornare a lavorare in Italia, perché c'erano le condizioni, erano evidentemente interessanti, se no non sarebbe tornato e non avrebbe istituito questo laboratorio a Trento. Prima di tutto devo ringraziare l'Università di Trento che mi ha dato la possibilità di tornare, ma poi soprattutto fondazioni private. Io ho avuto finanziamenti, il nostro laboratorio ha ottenuto molti soldi da fondazioni private come la Fondazione Armenise, la AIRC, Caritro, che ci hanno permesso di fare questi esperimenti, perché purtroppo sono molto costosi. Creare questi piccoli cervelli artificiali è complesso e molto costoso, perciò servono più fondi, non solo per noi ma per tutti i ricercatori. Certo, perché prima c'era da creare questo organoide, poi c'è da capire come, cioè da studiare via via la malattia, come si evolve, come si può contrastare. Sì, prima diciamo che abbiamo questo piccolo cervello artificiale con delle cellule nervose, come abbiamo il nostro cervello, anche altri tipi di cellule, siamo riusciti a trasformarle, a farle ammalare, cercando di capire cosa succede nei bambini, abbiamo cercato di rifarlo in laboratorio. Questa è stata un po' la nostra scoperta, che adesso siamo riusciti a trasformarle, a ammalare questi piccoli organi, che adesso sembrano essere abbastanza simili a quello nei pazienti. Ecco. E le ricerche che voi compite lì sono, diciamo, cose che sulle quali si stava già studiando, o c'è anche una parte di innovazione sul tipo di sperimentazione che si fa? Cioè si prende la cura tradizionale e la si prova su questo organoide, sono cure nuove anche quelle? No, diciamo che allora, prima, come potete capire, nei bambini ci sono dei protocolli ben specifici per trattare questi terribili tumori. Ti ricordo, i tumori pediatrici sono il killer oncologico dei bambini, è il tumore che uccide più bambini in assoluto, come numeri assoluti. E quello che noi riusciamo a fare è testare tantissimi nuovi farmaci. Con il nostro modello, che ci permette di replicare questi piccoli cervelli, avere tanti piccoli cervelli malati, permette di testare 10.000 farmaci, cosa che prima era impossibile da fare nei pazienti o comunque in altri modelli. Questo secondo me è la vera svolta, di poter testare tantissimi farmaci e vedere quale funziona meglio. E di poterlo fare, diciamo, in batteria quasi. Ecco. Sì, esatto, quasi in modo industriale. Cioè abbiamo tutte queste piastre, scusate se dico termine... Scientifico, cioè tecnico. Sì, tecnico, ecco, scusate. piastre in cui abbiamo in queste piastre 90-100 piccoli organi artificiali, e dunque possiamo testare in ogni piccolo pozzetto di questa piastra con 100 organoidi 100 diverse molecole. È un processo molto veloce che perciò ci permette di valutare l'efficacia di molti farmaci. Beh, immaginiamo che in futuro si possa ragionare su anche su altri tumori nello stesso modo, ecco, questo sicuramente se da frutto e da successo questa vostra attività. Sì, diciamo che questo approccio non è nuovo per quanto riguarda l'oncologia. Altri laboratori, altri gruppi di ricerca in Europa e nel mondo lo hanno fatto per tumore all'intestino, per tumore al fegato, per tumore al polmone. Il nostro approccio è stato quello di farlo in un tumore che nessuno aveva mai studiato, come i tumori pediatrici con gli organoidi. Perciò è una tecnologia nuova che sta avanzando e penso sarà il futuro dell'oncologia o comunque del testare nuove droghe. La porto su un altro filone, ovviamente, sull'italianità, ma non perché se lo deve aspettare. Rientrando dall'estero, installando un laboratorio nello specifico a Trento, lei è anche il terzo di quelli che erano stati selezionati dalla Fondazione Armenise a ottenere questo, si chiama EMBO, immagino. Sì, EMBO. EMBO all'italiana, e quindi questo riconoscimento europeo vuol dire che insomma i cervelli ci sono, mancano i laboratori pubblici mi pare siano niente senza l'aiuto dei privati in Italia. Sì, purtroppo sì, questo è parzialmente vero. Diciamo che se possiamo fare un'analogia, il nostro cervello sono le università, le strutture, i laboratori che sono ottime, i nostri neuroni nel nostro cervello sono i ricercatori che sono ottimi, purtroppo quello che manca è lo zucchero, sapete che lo zucchero serve per far funzionare il cervello, e ai nostri ricercatori mancano i soldi, i fondi per poter lavorare. Abbiamo delle strutture fantastiche, dei ricercatori fantastici, ma ci mancano i fondi, i soldi per comprare, per fare gli organoidi ad esempio. Sì. Sono molto costosi. Forse ancora prima degli organoidi, forse mancano in alcuni casi. Tutto il resto. Sì. Per allestire un laboratorio, poi l'organoide è il passo successivo ovviamente. Sì, ma okay. Questo accade perché non c'è, cioè lo Stato mette diciamo così solo la cornice, mancano tutte le cose dentro, mi sembra di capire. Ma allora diciamo che ci sono anche dei fondi statali. O perché via via la sottratti. Sì. Ci sono anche dei fondi statali, però sono limitati rispetto agli altri paesi d'Europa. E soprattutto in Europa abbiamo anche tantissimi fondi privati. In Italia, come dicevo. Perché i fondi privati in Italia non arrivano? Non so, forse per la tassazione che vengono. Diciamo all'estero ci sono degli sgravi fiscali se finanzi un laboratorio, cosa che non so se sia presente in Italia. Questo potrebbe essere un grosso incentivo, quello di poter. Donare soldi, esatto, alla ricerca. Diciamo. Esatto, donare come è stato. Cioè, io, grazie a queste donazioni private, sono riuscito a installare il mio laboratorio. E a farlo lavorare. Ora lei è a Trento, quindi sta in una regione un po' particolare rispetto, ma lo dico proprio amministrativamente, magari può essere anche diversa, però la prossima volta ci porti anche coloro che hanno donato e così almeno chiediamo a loro come hanno fatto, insomma, se c'è una via, quale potrebbe essere il modo per incentivare, perché non è che in Italia manchino delle grandi imprese che potrebbero contribuire alla ricerca. Quindi ci deve essere un inghippo da qualche altra parte, chiaramente. Sì, allora, diciamo secondo me, nella mia modesta opinione, un grosso problema è il dubbio che le persone hanno. Poi questi soldi come verranno valutati? Chi è che li utilizzerà? Come li utilizzerà? In questo devo dire, le fondazioni che mi hanno aiutato, l'Armenise e l'AIRC, fanno delle selezioni molto, molto dure, con dei professionisti, con dei professori che veramente sfidano chi è che sta chiedendo quei soldi. Cioè veramente fanno domande, o comunque fanno delle call, dei progetti che devono essere veramente ottimali. Secondo me un punto chiave è quello veramente di fare selezione, di avere delle persone che riescono a selezionare i migliori progetti. Allora poi chi dona dice: ho donato i miei soldi, ho donato dei fondi, però va a un ricercatore che vale. Secondo me questo è anche un passaggio psicologico che dobbiamo fare. Il passaggio psicologico un po' di tutta questa puntata, cioè non siamo sempre tutti uguali, ma dobbiamo anche rendercene conto, insomma. Io non sono uguale a un ciclista che fa il giro d'Italia, esatto, e non mi posso offendere se a me non danno i soldi per correre in bicicletta o non mi regala la bicicletta, esatto, la miglior marca del mondo, no? Migliori, diciamo. Poi bisogna saperli scegliere i migliori, esatto, non esatto, è da tutti, questo esatto, è chiaro, però bisogna bisogna fare questo sforzo. Mi è scomparso un messaggio, volevo chiudere con la richiesta di un ascoltatore che era un po' specifica, che chiedeva, se non ricordo male, ma se sappiamo il meccanismo per il quale il cervello si ammala, non possiamo fare il meccanismo contrario? Non credo che sia così. Allora, no, però è una bella domanda. Allora, sì, il cancro, almeno quello al cervello, quello che stiamo studiando nel laboratorio, è una malattia genetica. La sto, diciamo, molto semplificata, non è esattamente corretto, però sono dei geni che sono modificati in queste cellule impazzite, ed è quello che abbiamo fatto nei nostri piccoli cervelli. E dunque rimodificare questi geni, farli tornare normali, oggi non c'è la tecnologia per farlo. Perciò il problema è veramente che il tumore all'interno del cervello del bimbo sta crescendo ed ha dei geni modificati, e questi sono veramente difficili da modificare. Se posso fare solo una precisazione, sì. il premio EMBO non va ai migliori ricercatori sotto i 40 anni, ma quelli che hanno preparato, creato il loro laboratorio da meno di 4 anni. Era un errore che c'era nei vari comunicati. Ah, bene, no, beh, abbiamo fatto anche qua la differenza. Ragazzi, oggi andiamo a sbugiardare tutti gli errori. Va bene, compresi i commercialisti che non sono consulenti tributari. Grazie davvero, Luca Tiberi, in bocca al lupo. Risentiamoci presto, così magari parliamo proprio di come si finanzia la ricerca. Mi farebbe molto piacere. Grazie. E complimenti a tutto il laboratorio, ovviamente, al team che lavora con lei. Piccola pausa, viabilità, e poi parliamo di fare la differenza partendo da un'impresa nuova in tempi di pandemia. Si può fare. Si può fare. Fondatrice dell'agenzia di comunicazione 5.20, imprenditrice senza paura, senza tema, senza paura. Buongiorno Paola. Buongiorno, grazie per avermi invitata, che bella presentazione, wow. Beh, no, io ho sentito raccontare la tua storia, mi è piaciuta moltissimo, ho detto però questa, lo so che aveva molta esperienza nel campo della comunicazione, però mettersi proprio 5.20, ci dici tu poi perché, in questo periodo storico, a fare una nuova impresa, un'agenzia, quindi insomma fare tutte quelle pratiche che ci diceva prima il nostro amico consulente tributario, insomma, ecco, non è proprio, non so se l'avrei fatto io, ecco. Beh, allora, prima di tutto 5.20 nasce da me, ma anche dalla mia socia Loredana Pina, ed è giusto dirlo, siamo in due e non sono da sola, e questa è una cosa che è importante, che volevo dire, e poi che mi ha dato una forza in più, no? Quando sei in due anche ti appoggi a un'altra persona e quindi è più facile. 5.20 nasce, il nome anche perché è nata a maggio 2020, esatto, e quindi non sapeva. Allora, noi eravamo consulenti in un'agenzia di comunicazione, chiaramente marzo e aprile sono stati due mesi in cui neri, in cui la comunicazione è andata avanti, ma abbiamo un po' rallentato i ritmi. Noi venivamo da un momento di sfilate, uomo, donna, il Festival di Sanremo, gli eventi, un momento molto frenetico. Ci siamo trovati a fermare tutta quella parte di frenetica degli eventi e di lavorare sempre sulla comunicazione, ma dargli un altro angle, no? Chiaramente lavorare sulla strategia dei brand, sull'heritage, su altri punti. Sì, mantenere viva il ricordo, esatto, che ci siamo, però quello era fondamentale. Però in quel momento chiaramente i ritmi erano rallentati, e quindi è stato anche un momento per pensare, no, a quello che che potevamo fare da grandi, no? Sì. E quindi questo, non mi piace pensare mai al momento del Covid, della pandemia, come un'opportunità. Perché comunque con un milione... Lo trovo orribile esatto, anch'io. Perché... Adesso da un punto di vista anche comunicativo, dire esatto, che questa è un'opportunità... Esatto, in mezzo di morti, vittime, credo, più o meno malati, insomma... No? Non voglio assolutamente dire che per me è stata o per noi un'opportunità, è stato un momento di riflessione, sicuramente. Un momento di riflessione dove abbiamo potuto pensare che forse era il momento per fare qualcosa di nostro. C'erano delle cose che non per noi sulla comunicazione non funzionavano, sulla comunicazione tradizionale, era il momento di, potevamo pensare a come volevamo noi gestire la comunicazione per i brand. E quindi a maggio abbiamo deciso di fondare 5.20, un momento della fase 2, per cui delle riaperture, della ripresa, per cui diciamo un momento positivo da un certo punto di vista. E quindi è nata la 5.20 e basta. e quindi siete ripartiti con un'idea anche di comunicazione un po' diversa rispetto a quella per le agenzie per le quali eravate consulenti. Sì. Perché anche quello vi ha così motivato, credo. Voi avevate un'idea che gli altri non ritenevano adeguata, non lo so, non la volevano portare avanti. Come dicevo prima, la comunicazione doveva un po' cambiare per tutti, perché c'era una parte di cose che non potevi fare. Non possiamo organizzare eventi, non possiamo organizzare sfilate, party, aperture, inaugurazioni. Questa parte qui ovviamente in questo momento è al momento bloccata. Bisognava lavorare su un altro tipo di strategia per i brand. I brand devono sempre essere accompagnati dalla comunicazione, devono essere supportati dalla comunicazione, ma in un altro modo, lavorare molto sull'heritage, sull'artigianalità italiana, su quali prodotti spingere al momento, qual è il prodotto che puoi spingere in un momento come questo. Però c'è un lavoro dietro. C'era anche da un'idea fare. Di solidarietà, se non sbaglio, nelle vostre corde. Sì. Di sì, palesare di più, insomma, di esatto. Uscire di più ed essere solidali. Allora, perché 5.20 è un'agenzia di comunicazione che ha una parte sempre legata al no profit, per cui era una cosa che non riuscivamo a fare nelle altre collaborazioni che abbiamo fatto, che volevamo assolutamente io e Loredana occuparci anche, e siccome l'agenzia è nostra possiamo chiaramente gestire il nostro tempo la e gestisco quindi, io esatto, gestire il nostro tempo e quindi ovviamente occuparci dei brand per cui facciamo le PR, però poi avere sempre una sezione legata al no profit. Quindi a maggio abbiamo iniziato con un'iniziativa per il San Raffaele, per gli operatori sanitari del San Raffaele, e adesso abbiamo appena concluso un'attività di supporto per la Onlus The Circle Italia, che è una Onlus legata alle donne. E quindi avremo sempre una parte del nostro tempo supporterà questa parte, è una cosa che noi in cui noi crediamo bene. Molto e quindi ci piace farlo e lo possiamo fare. E a noi piace che voi ci abbiate pensato. Dobbiamo salutarci, Paola, ma veramente in bocca al lupo per questa vostra attività. Paola Ruffo, l'agenzia di cui abbiamo parlato è la 5.20. Siamo giunti al termine di questa puntata di oggi di Si può fare. Come sempre in redazione Edoardo Lavezzari, Michele Michelazzo l'autore, Peter Bescapè in regia. Da Laura Bettini un buon proseguimento d'ascolto e ci ritroviamo domani alle 8.30.